ad alta voce. Massimo Popolizio legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Da sedere al padre, disse Don Rodrigo. Un servitore presentò una sedia sulla quale si mise il padre Cristoforo, facendo qualche scusa al signore d'esser venuto in ora inopportuna. Bramerei di parlarle da solo a solo con suo comodo per un affare d'importanza, soggiunse poi con voce più sommessa all'orecchio di Don Rodrigo. Bene, bene, bene, parleremo, rispose questo, ma intanto si porti da bere al padre. Il padre voleva schermirsi, ma Don Rodrigo, alzando la voce in mezzo al trambusto che era ricominciato, gridava: «No, no, perbacco, non mi farà questo torto, non sarà mai vero che un cappuccino vada via da questa casa senza aver gustato del mio vino, né un creditore insolente senza aver assaggiate le legna dei miei boschi». Queste parole eccitarono un riso universale e interruppero un momento la questione che s'agitava caldamente tra i commensali. Un servitore, portando su una sottocoppa un'ampolla di vino e un lungo bicchiere in forma di calice, lo presentò al padre, il quale, non volendo resistere a un invito tanto pressante dell'uomo che gli premeva tanto da farsi propizio, non esitò a mescere e si mise a sorbir lentamente il vino. «L'autorità del tasso non serve al suo assunto signor podestà riverito, anzi è contro di lei», riprese a urlare il conte Attilio, «perché quell'uomo erudito, quell'uomo grande che sapeva a menadito tutte le regole della cavalleria, ha fatto che il messo d'Argante, prima di esporre la sfida ai cavalieri cristiani, chieda licenza al pio Buglione». «Ma questo», replicava non meno urlando il podestà, «questo è un di più, un mero di più, un ornamento poetico, già che il messaggero è di sua natura inviolabile, per diritto delle genti, iure gentium». E senza andar troppo a cercare, lo dice anche il proverbio: ambasciator non porta pena. E i proverbi, signor conte, sono la sapienza del genere umano. E non avendo il messaggero detto nulla in suo proprio nome, ma solamente presentata la sfida in iscritto, ma quando vorrà capire che quel messaggero era un asino temerario che non conosceva le prime, con buona licenza di lor signori? Interruppe Don Rodrigo, il quale non avrebbe voluto che la questione andasse troppo avanti. Rimettiamola al padre Cristoforo e si stia alla sua sentenza. Bene, benissimo, disse il conte Attilio, al quale parve cosa molto garbata il far decidere un punto di cavalleria da un cappuccino, mentre il podestà, più infervorato di cuore nella questione, si chetava a stento e con un certo viso che pareva volesse dire: ragazzate, ma... «Ma da quel che mi par d'aver capito», disse il padre, «non sono cose di cui io mi deva intendere». «Solite scuse di modestia di lor padri», disse Don Rodrigo, «ma non mi scapperà, via, via. Sappiamo bene che lei non è venuta al mondo col cappuccio in capo, che il mondo l'ha conosciuto, via, via, via. Ecco la questione». «Il fatto è questo», cominciava a gridare il conte Attilio. «Lasciate dire a me che sono neutrale, cugino», riprese Don Rodrigo. «Ecco la storia. Un cavaliere spagnolo manda una sfida a un cavaliere milanese. Il portatore, non trovando il provocato in casa, consegna il cartello a un fratello del cavaliere, il qual fratello legge la sfida e in risposta dà alcune bastonate al portatore». «Si tratta ben date, ben applicate», gridò il conte Attilio. «Fu una vera ispirazione del demonio», soggiunse il podestà, «battere un ambasciatore, che è una persona sacra. Anche lei, padre, mi dirà se questa è azione da cavaliere». «Sì, signore, da cavaliere», gridò il conte, «e lo lasci dire a me che devo intendermi di ciò che conviene a un cavaliere. Ah, se fossero stati pugni, sarebbe un'altra faccenda, ma il bastone non sporca le mani a nessuno. Quello che non posso capire è perché le premano tanto le spalle di un mascalzone. E a chi le ha parlato delle spalle, signor conte mio? Lei mi fa dire spropositi che non mi sono mai passati per la mente. Ho parlato del carattere e non di spalle, io. Parlo soprattutto del diritto delle genti. Mi dica un poco, di grazia, se i feciali che gli antichi romani mandavano a intimare le sfide agli altri popoli chiedevano licenza ad esporre l'ambasciata. Oddio, e mi trovi un poco uno scrittore che faccia menzione che un feciale sia mai stato bastonato. Ma che hanno a far con noi gli ufficiali degli antichi romani? Gente che andava alla buona e che in queste cose erano indietro. Ma secondo le leggi della cavalleria moderna, che è la vera, io dico e sostengo che un messo il quale ardisce di porre in mano a un cavaliere una sfida senza avergliene chiesta licenza è un temerario, violabile, violabilissimo, bastonabile, bastonabilissimo. Ma risponda un poco a questo sillogismo. Niente. Ma ascolti. Percotere un disarmato è un atto proditorio. Atqui il messo de quo senza arme ergo. Piano, signor Podestà. Ma che piano? Dico piano, le dico. Ma cosa mi viene a dire? Atto proditorio è ferire uno con la spada per di dietro o dargli una schioppettata nella schiena. E anche per questo si possono dar certi casi, ma stiamo nella questione. Concedo che questo generalmente possa chiamarsi atto proditorio, ma appoggiar quattro bastonate a un mascalzone. Sarebbe bella che si dovesse dirgli guarda che ti bastono, come si direbbe a un gentiluomo mano alla spada, no? E lei, signor dottor Riverito, invece di farmi dei sogghigni per farmi capire che è del mio parere, perché non sostiene le mie ragioni con la sua buona tabella per aiutarmi a persuadere questo signore? Io, rispose confusetto il dottore, io godo di questa dotta disputa e ringrazio il bell'accidente che ha dato occasione a una guerra di ingegni così graziosa. E poi a me non compete di dar sentenza. Sua signoria illustrissima ha già delegato un giudice qui, il padre. È vero, disse don Rodrigo. Ma come volete che il giudice parli quando i litiganti non vogliono stare zitti? Ammutolisco, disse il conte Attilio. Il podestà strinse le labbra e alzò la mano come in atto di rassegnazione. Ah, sia ringraziato il cielo. A lei, padre, disse don Rodrigo con una serietà mezzo canzonatoria. Ho già fatte le mie scuse col dire che non me ne intendo, rispose fra Cristoforo, rendendo il bicchiere a un servitore. Scuse magre, gridarono i due cugini. Vogliamo la sentenza. Beh, quando è così, riprese il frate, il mio debole parere sarebbe che non vi fossero né sfide, né portatori, né bastonate. I commensali si guardarono l'un l'altro, maravigliati. Oh, questa è grossa, disse il conte Attilio. Non mi perdoni, padre, ma è grossa. Si vede che lei non conosce il mondo. E lui? Disse don Rodrigo. Me lo volete far ridire? Lo conosce, cugino mio, quanto voi, non è vero, padre? Dica se non ha fatta la sua carovana. E invece di rispondere a questa amorevole domanda, il padre disse una parolina in segreto a sé medesimo. Queste vengono a te, ma ricordati, frate, che non sei qui per te e che tutto ciò che tocca te solo non entra nel conto. Sarà, disse il cugino, ma il padre, come si chiama il padre? Padre Cristoforo, rispose più d'uno. Ecco, ma padre Cristoforo, padron mio, colendissimo, con queste sue massime, lei vorrebbe mandare il mondo sotto sopra, senza sfide, senza bastonate. Addio il punto d'onore, impunità per tutti i mascalzoni, per buona sorte che il supposto è impossibile. Animo, e voi dottore, scappò fuori don Rodrigo, che voleva sempre più divertire la disputa dei due primi contendenti. Animo a voi, che per dar ragione a tutti siete un uomo, vediamo un poco come farete per dar ragione in questo al padre Cristoforo. In verità, rispose il dottore, tenendo brandita in aria la forchetta, rivolgendosi al padre. In verità, io non so intendere come il padre Cristoforo, il quale è insieme il perfetto religioso e l'uomo di mondo, non abbia pensato che la sua sentenza, buona, ottima e di giusto peso sul pulpito, non val niente, sia detto col dovuto rispetto, in una disputa cavalleresca. Ma il padre sa meglio di me che ogni cosa è buona a suo luogo e io credo che questa volta abbia voluto cavarsi con una celia dall'impiccio di proferire una sentenza. Che si poteva mai rispondere a ragionamenti dedotti da una sapienza così antica e sempre nuova? Niente. E così fece il nostro frate. A questo punto, tirato fuori del bicchiere un naso più vermiglio e più lucente di quello, il dottore, battendo con enfasi ogni sillaba, sentenziò: «Dico e proferisco che questo è l'olivares dei vini, censui et ineam ivi sententiam, che un liquore simile non si trova in tutti i 22 regni del re nostro signore, che Dio guardi, dichiaro e definisco che i pranzi dell'illustrissimo signor Don Rodrigo vincono le cene dell'Eliogabalo e che la carestia è bandita e confinata in perpetuo da questo palazzo dove siede e regna la splendidezza». «Ben detto, ben definito!» gridarono a una voce i commensali. Ma quella parola, carestia, che il dottore aveva buttato fuori a caso, rivolse in un punto tutte le menti a quel tristo soggetto e tutti parlarono della carestia. Qui andavano tutti d'accordo, almeno nel principale, ma il fracasso era forse più grande che se ci fosse stato disparere. Parlavano tutti insieme. «Non c'è carestia», diceva uno, «sono gli incettatori e i fornai», diceva un altro, «che nascondono il grano, impiccarli, appunto, impiccarli, senza misericordia». «Dei buoni processi», gridava il podestà. «Ma che processi?» gridava più forte il conte Attilio. «Giustizia sommaria, pigliarne 3 o 4 o 5 o 6, di quelli che con voce pubblica sono conosciuti come i più ricchi e i più cani e impiccarli. Esempi, esempi. Senza esempi non si fa nulla. Impiccarli, impiccarli, e salterà fuori grano da tutte le parti». Chi, passando per una fiera, si è trovato a goder l'armonia che fa una compagnia di cantambanchi quando tra una sonata e l'altra ognuno accorda il suo strumento, facendolo stridere quanto più può a fine di sentirlo distintamente in mezzo al rumore degli altri, si immagini che tale fosse la consonanza di quei, se si può dire, discorsi. S'andava intanto mescendo e rimescendo di quel tal vino e le lodi di esso avvenivano, come era giusto, frammischiate alle sentenze di giurisprudenza economica, sicché le parole che si udivano più sonore e più frequenti erano ambrosia e impiccarli. Don Rodrigo intanto dava delle occhiate al solo che stava zitto e lo vedeva sempre lì, fermo, senza dar segno di impazienza né di fretta, senza far atto che tendesse a ricordare che stava aspettando, ma in aria di non voler andarsene prima d'essere stato ascoltato. L'avrebbe mandato a spasso volentieri e fatto di meno di quel colloquio, ma congedare un cappuccino senza avergli dato udienza non era secondo le regole della sua politica. Poiché la seccatura non si poteva scansare, si risolvette d'affrontarla subito e di liberarsene. S'alzò da tavola e seco tutta la rubiconda brigata senza interrompere il chiasso. Chiesta poi licenza agli ospiti, s'avvicinò in atto contegnoso al frate, che si era subito alzato con gli altri, e gli disse: «Eccomi, ai suoi comandi», e lo condusse in un'altra sala.

ringrazia il saio che ti copre con queste spalle da mascalzone e ti salva dalle carezze che si fanno ai tuoi pari per insegnar loro a parlare. Esci con le tue gambe per questa volta e la vedremo. Così dicendo, additò con impero sprezzante un uscio in faccia a quello per cui erano entrati. Il padre Cristoforo chinò il capo e se ne andò, lasciando Don Rodrigo a misurare a passi infuriati il campo di battaglia. Massimo Popolizio ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.